ritengo che la raccolta positiva e il dato sul risparmio dipenda essenzialmente anche dalle migliorate condizioni di mercato, dei mercati finanziari, come riflesso dal fatto, per esempio, che l'obbligazionario, il comparto obbligazionario vada molto meglio del comparto azionario, come sta succedendo più in generale sul mercato. Sicuramente è da salutare la raccolta positiva, sicuramente è da salutare un po' di ritrovata fiducia da parte dei nostri risparmiatori. È in forte crescita la gestione dei cosiddetti mandati, la gestione dei portafogli assicurativi, immobiliari e così via. Vuol dire in pratica prodotti venduti a questi operatori che a loro volta costruiscono dei prodotti per la clientela. Questo rappresenta più della metà del risparmio gestito italiano, circa un po' più di 500 miliardi, che rappresenta il comparto in crescita. Per quello che riguarda invece le gestioni collettive, quello che comunemente si chiama i fondi, il comparto è sostanzialmente stazionario, ma qui invece osserviamo una notevole sostituzione dei fondi esteri che rimpiazzano i fondi italiani, il che non ci fa piacere.